English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Già in passato vi abbiamo consigliato l'ascolto di alcuni podcast in rete. Ovviamente al primo posto c'è quello di English 24. Beh, questo è ovvio. Però se volete ascoltare anche dei podcast solo in lingua originale, c'è ad esempio quello del New Yorker, il famosissimo settimanale americano. In rete ha appunto il suo podcast. Noi ve ne facciamo ascoltare solo qualche secondo perché solo di un consiglio si tratta. E in questa puntata il giornalista Alex Ross raccontava del suo incontro con il compositore Michael Giacchino. I tuned into the very first episode of Lost and immediately kind of got wrapped up in the strange mysteries of the show, and before that I was watching the previous J.J. Abrams TV project that Giacchino wrote music for, Alias. And somewhere in the middle of that, I started focusing on the music because it was just much more interesting than the average. Like on TV shows these days, you tend to hear a synthesized score, you know, samples and loops and sort of imitations of instruments. Michael Giacchino, l'incontro di Alex Ross, critico musicale del New Yorker, è insomma un incontro dal punto di vista televisivo, è andata così. Sì, he tuned in vuol dire sintonizzarsi letteralmente, gli americani lo usano anche per la televisione, quindi I tuned in to the very first episode, quindi al primo episodio. Ricordate questa espressione che è il molto primo episodio, che noi naturalmente in italiano non possiamo usare, noi diciamo proprio il primo, però in inglese si dice invece the very first. E poi he got wrapped up. To wrap something vuol dire impacchettare, per esempio wrapping paper è quella che usiamo per fare i regali ed è molto bella come espressione, no? Effettivamente Lost è questo, ti impacchetta in modo che tu non puoi più uscire dall'ossessione di Lost. O naturalmente si può anche dire to tune in to Radio 24, sintonizzarsi su una radio, consigliamo naturalmente Radio 24. Ma anche in questo non abbiamo dubbi. Lui è rimasto in realtà conquistato da Michael Giacchino ancora prima di Lost, che è la serie televisiva che l'ha reso famosissimo. Quindi qui vediamo un'altra espressione, quindi the previous J.J. Abrams TV project that Giacchino wrote music for. Il for è alla fine, avrebbe potuto anche mettere, in tedesco per esempio è obbligatorio mettere sempre tutto alla fine o quasi nelle subordinate, in inglese no, quindi avrebbe anche potuto dire the project that Giacchino wrote music for, o for that project that Giacchino had written music, però ha scelto di mettere il for alla fine, quindi era questo progetto precedente per il quale Giacchino aveva già scritto musica e si chiamava Alias. Da critico musicale, Alex Ross non si è fatto conquistare dalla trama del telefilm, ma si è ovviamente concentrato sulla musica. Credo sia una simpatica deformazione professionale. Sì, anche quindi per lui dice giustamente I started focusing on the music, quindi sì, was wrapped up in Lost, però ha anche iniziato a focalizzarsi, to focus on, sulla musica, quindi come in italiano si usa il sul, che ovviamente era much more interesting. Qui notate come sempre quando la gente è molto lungo, interesting, non si può aggiungergli la ER alla fine, bisogna dire more interesting, in questo caso addirittura much more interesting, molto più interessante. Noi spesso facciamo caso alla musica dei film, Michael Giacchino che è stato premiato con l'Oscar per la colonna sonora di Up, a volte invece trascuriamo un po' le colonne sonore delle serie televisive, ma invece sono molto importanti e in due righe Alex Ross ci spiega che cosa succede adesso in queste colonne sonore anche per la televisione. Chiaro, per noi appunto che non siamo dei tecnici è difficile accorgersene, però lui lo spiega, cioè molto in these days, di questi giorni, di questi tempi, you tend to hear a synthesized score. Score vuol dire punteggio, ma vuol dire anche colonna sonora, che sappiamo che si può anche dire soundtrack, però score è più proprio quello che c'è, la parte di base, perché magari con la colonna sonora noi intendiamo le canzoni famose, qui è proprio la musica di base, di sottofondo, che molto spesso, ci spiega Ross, è fatta con dei sintetizzatori, ma non nel caso di Giacchino. Sì, perché non ci sono samples, i campioni, i loops, queste frasi che si ripetono così ad anello, imitazioni di strumenti. No, Giacchino ha un vero e proprio stile di composizione e in Lost in particolare, ci sottolinea Alex Ross, ogni personaggio ha la sua musica e questo è quello che succede con il personaggio di Said. Said is a former member of the Iraqi Republican Guard, a torture specialist like many of the characters on Lost. He is escaping a dark past. The details, the context doesn't really matter. You're hearing Said talking to his brother. His brother is in debt to someone and wants Saeed to step in to get him out of this situation. And just in a very brief time, you're going to hear some very characteristic Giacchino sounds on Lost, this shivery sound. Beh, una critica molto precisa del carattere della musica di Giacchino abbinato a questo personaggio che è Saeed, uno dei tanti personaggi di Lost. E che è un former member di una qualche tipo di Iraqi police, quindi anzi di una squadra di torturatori. Former, e quindi vuol dire che è stato, era precedentemente, quindi non so, the former president of the United States was George Bush, mentre oggi naturalmente c'è Obama, noi tifiamo Obama sempre comunque. Like many of the characters, has a dark past, un passato oscuro. E vogliamo forse che tutto questo non emerga nella musica di Giacchino, ma certo che sì. E per esempio c'è appunto, Ross cita questa telefonata in cui Saeed è al telefono con his brother, con suo fratello, che il brother è in debt to someone, ha un debito verso qualcuno e wants Saeed to step in. To step in vuol dire subentrare. Anche qui è un tipico phrasal verb, perché step è naturalmente anche passo, ma anche gradino. In questo caso to step in vuol dire figurativamente abbastanza intuitivo, mettersi nelle mie scarpe, potremmo dire. Comunque, quindi intercedere per lui, e dietro questo discorso che il fratello, che i due fratelli si fanno, c'è questo shivery sound, un suono che fa venire i brividi. Shivers vuol dire brividi. È una cosa bellissima guardare comporre proprio un musicista, e Alex Ross ha proprio osservato Michael Giacchino comporre. It was great fun for me because I've written about composers and creative artists before, but I'd never really watched someone compose an entire piece of music as I did in this case, and it's possible to watch this whole process unfold because the schedule is so strict, and he just has to write these things very fast. He has 2.5 days at most to write up to 35 minutes of music in a particular episode. Music is often treated as a utility, as something that's sort of stuck in at the last minute. There are certain directors who put a lot more thought into it, and I think the happiest composers in Hollywood are those who have cultivated a long-term relationship with a director. È anche simpatico questo Alex Ross. Noi ci pensiamo ai critici musicali magari a volte come un po' chiusi nel loro mondo. Invece questo critico del New Yorker, effettivamente il New Yorker è molto simpatico come infatti stile. È utile sentire questi podcast per dare appunto, se non altro, se non un volto, una voce a quello che leggiamo a volte sulle pagine del New Yorker. In questa rivista così chic, anche così con una certa ironia. Effettivamente lui confessa di essersi divertito. Great fun for me, non solo fun, quindi non è stato divertente, è stato molto molto divertente, perché lui spiega I've written about composers and creative artists before, però in generale ascolta quando il lavoro è già stato fatto. Confessa I never really watched anyone compose as I did in this case, quindi è stata la prima volta che ho potuto veramente vedere il processo creativo mentre si svolgeva. C'è anche da dire che Michael Giacchino non ha tutto il tempo che vuole per esercitare il suo genio creativo quando compone una colonna sonora, soprattutto per una serie televisiva, perché le puntate sono tante. Lui quanto tempo ha? Pochissimo. Sì, proprio the schedule is so strict. Schedule è una parola che gli americani pronunciano così, schedule, mentre gli inglesi per qualche motivo pronunciano schedule. E comunque strict invece vuol dire stretto, ma vuol dire anche severo in altri contesti. Per esempio, se un genitore è molto severo, come non so se vi ricordate Madonna con sua figlia, di cui abbiamo parlato un po' di puntate fa, ecco, strict anche in quel senso. Ma tornando al povero Giacchino, ha 2.5 days at most, ha al massimo 2.5 giorni per scrivere, to write up to 35 minutes of music, per scrivere fino a 35 minuti di musica, che è quello che naturalmente serve per l'episodio, perché poi se poi togliamo la pubblicità, la lunghezza degli episodi di Lost è quella. Il tempo è poco e bisogna produrla quasi industrialmente. Sì, esatto, tant'è che a volte spiega music is treated as utility, qui un false friend, le utilities in inglese sono l'elettricità, l'acqua, il gas, quindi è trattato come qualcosa di cui sì, c'è bisogno, ma naturalmente non le si dà peso artistico. Stuck in at the last moment, messa lì proprio appiccicata. Stuck è il participio passato di stick, stuck, appiccicata lì all'ultimo momento. No, non è il caso di Giacchino e probabilmente neanche di chi lo ha ingaggiato per Lost. Ci sono naturalmente dei directors per i telefilm, ma naturalmente anche per i film, who have put a lot more thought into it. Quindi non tutti pensano che sia una utility da appiccicare all'ultimo momento, ma è qualcosa a cui dedicare more thought into it, a cui dedicare parecchio pensiero, quindi parecchio tempo, e questo fa dei compositori gli uomini più felici al mondo. Quindi i compositori che hanno questa long term relationship with the director ovviamente sono the happiest composers in Hollywood e dintorni. Dobbiamo salutare Michael Giacchino, il compositore di successo. Dobbiamo salutare anche Alex Ross, il giornalista del New Yorker e il podcast del New Yorker, che è veramente molto carino, perché il nostro tempo anche per questo sabato si conclude qui. Vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento alla prossima puntata.